storie de no altri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Un cordialissimo saluto a tutti da parte di Gesi. Sì, perché Antonio l'abbiamo mandato in missione e quindi arriverà col secondo ospite della serata. Bene, intanto cominciamo noi. Stasera avremo due ospiti, il dottor Tony Basso e poi avremo l'architetto Giorgio Fantin. Beh, intanto che aspettiamo appunto il primo ospite, andiamo subito con la canzone, la prima canzone in programma. E così vorrei ricordare Giorgio Consolini, che è morto pochi giorni fa. Così ho scelto una canzone che mi pareva abbastanza vivace ed è intitolata Amapola. Nel cuore della pampa profumata va il suon d'una dolce serenata, tra i fior canta il gitano alla sua amata, la bella canzon con immensa passione. Amapola, dolcissima amapola, la sfinge del mio cuore sei tu sola. Io ti bramo, ti invoco follemente per dirti t'amo appassionatamente. Amapola, vaghissima amapola, la luce dei miei sogni sei per me deliziosa, armoniosa come il suono della mia mandola. Di già spunta l'alba giù lontano e ancor canta il misero gitano, lassù dalla sua amata attende in vano un bacio ed un fior, un sospiro d'amore. Eccoci di nuovo in studio ed è arrivato il primo ospite. Dottore, buonasera e di nuovo bentornato. Ah, buonasera a lei, buonasera, ecco, a coloro che ci ascoltano. Ecco, benissimo. Ma tutti li ascoltano con piacere, dottore, sa? Mi lusinga. No, veramente sento i commenti che fanno e sono tutti contentissimi. Grazie. Bene, allora, la volta scorsa si parlava che Venezia ha adocchiato Treviso, insomma, perché per affari, logicamente per affari commerciali. E come è andata a finire poi la storia? Treviso è stata, c'è stata una, la chiamano dedizione, cioè Treviso ha scelto la frequenza della presenza veneziana nel territorio trevigiano per i motivi commerciali che abbiamo detto, ma c'erano anche altri motivi di più stretta utilità veneziana, cioè Venezia aveva bisogno di legname per costruire le imbarcazioni nel suo arsenale e aveva bisogno di mattoni per costruire le case della sua città e attività tutte queste che nella città di Venezia non erano realizzabili e quindi aveva bisogno di questo legname e in un primo tempo Venezia ha ottenuto queste cose con l'oro, cioè comprandole, ma poi ha detto ma è meglio che io mi garantisca la fornitura di questi materiali direttamente associandomi alla città di Treviso, e quindi c'è stato un reciproco interesse. I trevigiani, perché vedevano potenziato la loro capacità commerciale usufruendo di questa grande potenza marinara, e Venezia perché si garantiva dai boschi del Montello, del Cansiglio, e poi ci sarebbe stata l'espansione verso i boschi del Cadore, di questi materiali per il loro arsenale, e poi anche le fornaci. Chiaramente le fornaci dovevano essere fatte dove? In città, a Venezia no, ma dovevano essere fatte dove c'era la terra, cioè la materia prima per costruire il mattone, e anche il legno per fare il fuoco, per cuocere i mattoni e le tegole. Sì. Quindi c'è stata tutta un'attività di fornaci a Treviso che si è sviluppata lungo il Sile, perché poi era facile poter caricare questa merce nel Sile e poterla far arrivare a Venezia. Io ho visto delle fornaci proprio in un paesino qui fuori, verso Resana, quelle parti lì. Poi sono sorte, sì, anche addirittura sono sorte le fornaci a Piani, in una zona dove non c'è l'acqua del Sile, ma si stavano però avviando anche trasporti per via terra in maniera molto, molto diversa da quella primitiva, che era solamente il corso d'acqua. Si è detto Venezia ha messo gli occhi su Treviso, e quindi si è stabilita un'alleanza per cui Treviso per prima e per molti anni, una ottantina d'anni, è stata l'unica città di terraferma che faceva parte del dominio della Repubblica Veneta. È solo nel 400 che altre città, vedendo il successo, la fortuna che aveva avuto Treviso mettendosi assieme a Venezia, che si danno a fare alla Repubblica di Venezia, certo, e quindi fanno anche carte false, diremo, certo, noi, pur di entrare a far parte della Repubblica, certo, Veneta, certo. E Venezia quindi in questo senso ha colto la palla al balzo, non perché a lei interessasse l'entroterra, a lei interessavano sempre le rotte adriatiche e mediterranee, almeno fino a quando la scoperta dell'America ha messo in crisi il sistema marittimo commerciale del Mediterraneo, per cui hanno preso l'avvio le rotte atlantiche verso le Americhe, e quindi è cominciata la decadenza della potenza commerciale veneziana, e i grandi patrimoni dei mercanti veneziani sono stati investiti nelle campagne, e con la costruzione di grosse aziende agricole che avevano la loro centro di radiazione e di direzione in quelle che sono state le ville venete, che non erano sempre semplicemente dei capannoni dove mettere gli attrezzi agricoli o i prodotti dell'agricoltura o gli animali per lavorare la terra, ma erano anche dei luoghi di rappresentanza dove i veneziani venivano durante l'estate, nelle buone stagioni, per controllare i raccolti, ma anche per fare le loro feste. E quindi ecco che non erano fattorie, erano proprio ville. Erano erano delle fattorie, perché le barchesse, sì, e le adiacenze grandissime molte volte, pensiamo per esempio a Passariano, la villa Passariano di Udine, sì, che estensione hanno queste adiacenze, ma che avevano questa funzione, erano delle aziende agricole vere e proprie, organizzate. Questo per spiegare il trasferimento, cioè la disponibilità di capitali che dal commercio si sono trasferiti per i veneziani nell'agricoltura. Allora Venezia diventa il punto di riferimento, l'amministrazione, la politica economica, la politica estera, la difesa dei territori avviene soprattutto decisa a Venezia, dove soprattutto sono ancora i vecchi mercanti quelli che costituiscono il patriziato veneziano. Sì, sì. Ma certo, queste famiglie di vecchia o di nuova creazione o che sono assurde ad un certo livello economico riescono sempre con l'oro, cioè col denaro, riescono ad acquisire il diritto ad entrare nella classe patrizia e quindi poter partecipare alle decisioni politiche ed economiche dello Stato veneziano. Quindi molte famiglie, pensiamo per esempio a Treviso, da Brescia è venuta la famiglia dei Bettignoli che ha costruito in piazza, dove adesso c'è la piazza della Vittoria, ha costruito il più grande palazzo che c'era a Treviso, il palazzo dei Bettignoli da Brescia, detti anche Bressa dal nome della città Bressa, dalla quale... bene, questi... Ma è durato... adesso non c'è più, no, questo palazzo? No, è stato demolito perché con la fine della Repubblica gli eredi, ormai gravati di debiti, perché pur di arrivare ad avere non solo le proprietà immobiliari, hanno... per dare la scalata al patriziato veneziano si sono mangiati tutti i capitali che avevano, tant'è che l'ultimo erede ha donato l'area al comune e ha venduto i pezzi del palazzo a costruttori edili dell'epoca, colonne, soglie di porte, portali. Dov'era all'inizio di Piazza Vittoria? Il palazzo era precisamente dove adesso c'è il parcheggio delle automobili. Ho capito. Mentre dove c'è il tappeto verde e il monumento ai caduti, sì, lì c'erano le barchesse che sono sopravvissute alla distruzione del palazzo e sono state utilizzate come... addirittura c'era uno stabilimento fotografico lì, come si chiamava, e poi c'è stato un negozio di vendita di biciclette quando alla fine dell'Ottocento si sono sviluppate queste attività commerciali della vendita delle biciclette, e poi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, della Prima Guerra Mondiale, è stato demolito tutto ed è stato costruito il monumento ai caduti, che tuttora vediamo, un altro palazzo che era stato costruito così nel Cinquecento, sempre in quello stile ma più piccolo, era il palazzo di un'altra famiglia che era venuta da fuori, la famiglia dei Sergi, che veniva da Pola, addirittura da Pola. Allora la piazza che c'era davanti, quella che si chiama Piazza Pola adesso, era chiamata perché il palazzo si trovava dove adesso c'è la Banca d'Italia, nell'angolo, sì, ecco, e quel palazzo lì aveva dato il nome di Palazzo Pola alla piazza, ma i trevigiani continuavano a chiamarla col nome della famiglia dei Sergi. Ma nella dizione chiamavano Piazza Sergi? I trevigiani dicevano Serci. E allora nell'Ottocento, con la mania di italianizzare i termini, hanno detto: come mai non si dice Serci, si dirà Cerchina. E quindi nell'Ottocento la piazza era denominata Piazza Cerchi. E invece era lì uno, anche lì l'ultimo che ha comperato tutto quanto, sono stati i Salsa, che hanno abbattuto il palazzo e hanno costruito quell'edificio dopo, poi dove dopo è andata la Banca d'Italia. Sì. I Salsa avevano delle casette che ancora ci sono sulla prospicenti da via Manin, e in una di quelle case è nato il generale Salsa, Tommaso Salsa, che ha dato il nome anche, che anche la caserma, alla caserma nostra, sì. Ma comunque dicevo, queste famiglie nobiliari sono assurde al patriziato veneziano e facevano così da trait d'union tra la Venezia e il territorio trevigiano, ma non c'era, in genere i trevigiani e tutti quanti i territori dell'entroterra veneto sì, hanno accettato perché faceva comodo, ma c'era sempre un certo conflitto tra questa nobiltà di campagna e la città di Venezia, perché li vedevano quasi come degli invasori del loro territorio. In città le cose erano un po' diverse perché si guardava di più agli interessi immediati E comunque il sorgere poi di questa organizzazione amministrativa ha dato luogo anche allo svilupparsi di una burocrazia amministrativa e quindi perché c'erano anche prima, cioè delle carte, il bisogno di tante carte per tutte le pratiche che si dovevano, che non erano soltanto i vecchi testamenti che erano stesi sulla pergamena, ma il bisogno proprio di un supporto per la scrittura e che fosse la carta, e quindi sono sorte le cartiere, che anche queste avevano bisogno di una disponibilità di acqua, perché l'acqua serviva non solo per fare, per macinare la materia prima, perché le carte una volta era fatta, adesso è fatta con la plastica, ma una volta era prodotta dagli stracci. Gli stracci venivano come macinati, maciullati, fatte delle poltiglie in mezzo all'acqua, lavati, lavati e lavati, per cui c'era bisogno di acqua non solo abbondante e corrente, ma anche acqua pulita, tant'è che in epoca, già in epoca comunale, le cartiere, per questo inquinamento, diciamo noi, che producevano nel rilasciare l'acqua di lavaggio della poltiglia per fare, della polpa per fare poi la carta, dovevano sorgere fuori della città, a valle della città, per non sporcare la città. Già e allora quindi, c'era l'inquinamento, c'era un po' di inquinamento. Sì, ci poteva essere questo inquinamento, perciò c'erano delle disposizioni che in città non potevano esserci cartiere e tintorie, dovevano essere, e si sono sviluppate soprattutto le cartiere a levante della città, quindi tutti quei corsi d'acqua che Storga, Melma, L'Imbraga e via via poi fino alle zone di Carbonera, di là Musestre, Musestrelle, sono tutte località nelle quali si sono insediate molte cartiere. Con le cartiere a un certo momento è nata anche, si è sviluppata la stampa. La stampa, perché prima le opere, cioè tutto quello che era scritto a mano. E allora nasce con l'invenzione dei caratteri tipografici mobili, nasce la produzione di stampe in grande quantità. Scusi, allora qui nella zona nostra di Treviso c'erano tante cartiere. Sì, allora. Sì, ce n'erano moltissime. Perché io so che ce n'erano a Fabriano, ce n'erano sì, anche Fabriano e anche Amalfi, non sono tante le zone nelle quali in antico erano sorte le... Io ho trovato, per esempio, in un museo della carta in Romania, una pianta delle... esposto una specie di plastico, delle più antiche cartiere, e ho notato che fra le più antiche cartiere c'erano d'Europa c'era Treviso segnata, è stato un punto d'orgoglio scoprire che Treviso, come poi Amalfi, come Fabriano, hanno svolto, perché proprio per la disponibilità di acqua pulita per poter continuamente lavare, perché la carta poi deve risultare bianca o quasi bianca, insomma. Certo. Veniva quindi macerata, gli stracci, veniva poi ci sono sorte cartiere anche molto più vicine, addirittura dentro in città erano sorte delle cartiere, ma probabilmente il problema dell'inquinamento non era poi così grave e urgente come lo era all'inizio, quando l'acqua non c'erano gli acquedotti, quando non c'erano altre maniere di approvvigionamento di acqua. Ma una volta pensiamo che quando non c'era la distribuzione, la rete di distribuzione a domicilio di acqua, o c'erano i pozzi o c'erano le fontane che erano azionate a mano con delle pompe per far venire su dalla falda sotterranea l'acqua. Ecco, la invenzione della stampa dovuta a Gutenberg nella seconda metà del 400 ha dato non solo un impulso allo sviluppo commerciale, ma anche e soprattutto a quello industriale, a una mentalità industriale, e cioè la composizione, la matrice di stampa, era fatto con i caratteri tipografici mobili, e una volta fatto il primo foglio doveva essere scomposta la pagina, la matrice, per utilizzare i caratteri tipografici per fare la seconda, cioè, pagina. Erano macchine, e quindi doveva, quando si cominciava a stampare, bisognava avere l'idea di quante copie si sarebbero dovute fare. Sì. E quindi bisognava che ci fosse da parte del tipografo una mentalità industriale. Mi serviranno 100 copie, 1000 copie, 2000, perché una volta distrutto non è come fabbricare dei mattoni che sono sempre là, gli stampi, e non si buttano via. Per la carta c'era questa necessità. E quindi nasce con la stampa anche la mentalità industriale. Che non sempre è facile sapere quanti fogli ci vogliono per fare una cosa. E quali opere stampare. Perché bisognava anche produrre opere che avessero la prospettiva di divulgazione maggiore. E quindi ecco perché la prima opera a stampa è stata la Bibbia. Perché chi è che sapeva leggere una volta? Erano soprattutto gli ecclesiastici. E sì, quindi c'era la possibilità di una diffusione di questo prodotto attraverso queste istituzioni. Ma allora i commercianti di allora, così, tutto a mano scrivevano quello che, anche i loro conti, tutte sì, le sì, loro sì, cose? Sì, era tenuto tutto a mano, finché non è stata inventata appunto la stampa e la produzione, quindi della modulistica che noi oggi, che affligge adesso, la nostra, sì, appunto. Quindi c'è stato questo sviluppo della tipografia in funzione della burocrazia. E dopo con la ricaduta sulla cultura. Adesso sicuramente la tipografia è talmente migliorata che non si fa fatica a stampare. Sì, adesso i metodi moderni le matrici si possono conservare all'infinito. Ecco. Bene, allora anche stasera abbiamo fatto una bella chiacchierata. Beh, lei ha chiacchierato. E come dico sempre, una bella lezione, perché a me piacciono tanto queste cose. La ringrazio. Allora, io la ringrazio sempre e l'aspetto per la prossima volta. Va bene, grazie e saluto. Buonasera e buonanotte ai nostri ascoltatori. Ringraziamo di nuovo il dottor Basso e passiamo alla seconda canzone in programma. La seconda canzone in programma è intitolata Magari. Vi ho fatto ascoltare la volta scorsa un Magari che era di 30-40 anni prima. Questa qui invece è cantata da Renato Zero ed è del 2004. Ascoltiamo Renato Zero in Magari. Dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie, magari. Magari toccasse a me, esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa. Puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà. Magari. Magari toccassi a me un po' di quella felicità, magari. Saprò aspettare te, domani e poi domani, e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza è un talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, un certo mestiere anch'io mi provi. Idraulico cameriere, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente tranne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali. Che un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire. Rimani. Io sono pronto a fermarmi qui, il cielo vuole così, prendimi al volo e poi non farmi cadere più, da questa altezza sai, non ci si salva mai, mi ami, magari. Eccoci di nuovo in studio e sono arrivati Antonio col signor Giorgio Fantin. Buonasera a tutti e due. Buonasera. E agli ascoltatori e ascoltatrici naturalmente. Buonasera architetto, come sta? Sempre bene. Tutto bene? E qui sto bene, sì, senz'altro. Sì, bene, mi fa piacere. E bentornato fra noi. Ciao, sentivo la mancanza, allora mi sono premurato. Lei ha sempre tantissimi argomenti da proporci. Stasera che cosa ci propone di bello? Stasera abbiamo di parlare di un mese di maggio bellissimo. Una volta si andava a Fioretto, qui era Coete Fora, ma comunque c'è qualche piccola notizia di fine aprile. E poi il primo maggio abbiamo stato, possiamo parlare anche del beato Toniolo. Io naturalmente nel mio studio c'è una bella lapide che ricorda Toniolo, ma soprattutto vorrei parlare di 23 di del mese scorso di aprile, era San Giorgio. Sì, da noi è 26 anni che facciamo questa ricorrenza. Da due anni non facciamo più viaggi, ma siamo stati in Istria, siamo stati a Genova, siamo stati a Bologna, siamo stati a Ferrara, a Mantova, e ci siamo sempre divertiti. Siamo andati al Bernina anche, è sempre in buona compagnia. Adesso sti vecchi, i Giorgi si è morti, nessuno più si chiama Giorgio intanto. C'è una rarefazione. Non c'è più Giorgio da parecchi anni qui a Treviso, nessuno si chiama Giorgio. No, io ne conosco parecchi Giorgio. Ma è perché sono vivi e sono anziani, lei conosce gli anziani. O Giorgia invece, tutte Giorgia si chiamano. Esatto. Ah, Giorgia una variante femminile. Sì, ero portato due nipoti là assieme. E mangiamo allora un anno da Giorgio a Falcieri Trevignano, Giorgio Schiavon, e un altro anno da Giorgio Procita, che è mancato, ma andiamo dal figlio, a Spercenigo. Diciamo che la componente enogastronomica è sempre presente. No, e da trovarci, ci siamo stati benissimo, quest'anno eravamo in 25, e insomma è bello ritrovarci questo San Giorgio. Sane tradizioni, giustamente. E poi invece il 27 è qui San Liberale, noi facciamo una sagretta sempre nel battistero del Duomo. Ah, nel battistero, non a San Liberale? Sì, a San Liberale, non nel villaggio. Ah, ho capito. E mi spiace perché questa festa, che dovrebbe essere festa di tutta la giornata, fa festa il comune, fanno festa gli scolari, e banche forse a mezzogiorno chiudono e basta. No, nessun altro partecipa. Sente, tutti lavoriamo, sentita, ecco, esatto. Lavoriamo, no, perché forse c'è San Marco in mezzo, che probabilmente è festa Liberazione. San Marco è Venezia più importante, con la rosa, col boccolo della rosa da offrire. Però abbiamo fatto una festa, abbiamo portato un artista di strada che ha tenuto banco tutto il giorno. Abbiamo fatto offerto salame, formaggio, birra, quello che birra nostra, ma vino bianco e vino rosso. E poi alle 6 di sera sono arrivati i poeti del circo, la Bruna Barzalotto e una decina, 12. Ah, ogni anno vengono e dicono le poesie sul santo oppure qualche altra poesia. C'è anche il nostro amico Gallina? Non l'ho visto Gallina quest'anno, di solito viene, forse verrà al Beato Erico probabilmente, insomma non c'era... E molto probabilmente si vede che aveva dei problemi, perché sennò generalmente non manca mai. Partecipa sempre. Ci sarà una, a giugno questo? A giugno, 10 a giugno. Giugno, certo, sì. Certo. E dove lo fate quello? Davanti il tempietto di Beato Erico in via Canova. Ah, ho capito. E qui un'altra festa come quella di San Liberale? No, facciamo una sagretta più in dolce, insomma, di qui. L'abbiamo cercato di fare in grande con manifesti, poster, sa, tutte quelle... Qui pensavamo di portare anche la gondola di gelati, sa, dopo gruppo folcloristico non abbiamo fatto niente, ma si fa sempre quello, sì. E poi, dopo il 1° maggio, cosa è venuto? La beatificazione di un Toniolo, sì, che è nostro, sì, trevigiano, sì, e che qualcosa deve aver fatto perché per essere beato, sarebbe certo. Essere beato anche a me, sono beato fra le donne, invece sto quasi beato. Questa è di un'attualità assolutamente, sì, straordinaria il suo, sì, insegnamento e la sua vita, forse è più attuale adesso assolutamente che allora, vero, sì, che sì, allora. Certo. E poi avete fatto anche una festa, il 1° maggio avete fatto qualche festa anche così esterna? Il 1° maggio io l'ho fatto, la festa del lavoro sarebbe. Ah, quindi lei non ha lavorato? E io ho lavorato perché vado sempre in studio a fare le pulizie, vado a fare la posta delle carte. Quindi fatto lavoro. Diciamo, una ecco. Volta c'era la festa del lavoro, c'era la famosa corsa di camerieri. Ah. Che fino agli anni 60, forse 58, ha finito, dal 47-48, c'era questa corsa di camerieri, non dovevano correre, ma potevano portare un vassoio dal Duomo fino alla stazione e ritornare indietro. Però era una festa di lavoro, c'era, sì, il solito, sì, la CGIL faceva i discorsi, ho letto, sono andato a vedere i gazzettini in seminario, c'era anche la gara delle rane, e sto cercando adesso, poi c'erano la cuccagna, poi c'era il ballo la sera. Una volta usava tanto la cuccagna. Sì, sì. E i discorsi, logicamente, i sindacalisti, insomma. Certo. Il ballo però era bello anche la sera, perché la città era sempre più unita, era quella, insomma, la guerra. Uno scollamento progressivo. Sì. Adesso bisogna andare fuori per andare a ballare. Ma adesso, sì, adesso bisogna sapere. Io ho provato al tempo di Carnevale, ho fatto 2 veglioni al circolo ufficiali, uno trevigiani in maschera e un altro veglione dello sport, insomma. È riuscito abbastanza bene, pensavo qualcosa di più, però... Bisogna portare fuori, ecco, i trevigiani a divertirsi, non i nostri figli. Dobbiamo divertirci noi ancora. I nostri figli si divertono in discoteca? O? Sì, devo dire che una bella giornata di ieri, sabato, l'ho passata con grandi amici su una casa a Casale per mangiare il cinghiale, perché ogni anno andiamo ad Anghiari, c'è questo nostro amico che ci ospita. Loro vanno a caccia, noi portiamo a casa un pezzo di cinghiale, allora lo mangiamo qui, lui arriva anche domani, arriverà, è già stato ieri, e ritornerà ancora questi giorni qua, perché vuole rimanere a Treviso, ha visto una bella città e benissimo. Bene, è sede della famosa battaglia naturalmente. Allora ha fatto sabato, domenica e lunedì farà e basta. Splendido. Ma anche che aveva un gusto di selvati col cinghiale, com'è? No, è un brasato praticamente, l'ha preparato il cuoco di Benetton, un certo Davide, giocava a pallacanestro, Davide Croce, bravissimo, l'ha pulito, e pappardelle al ragù di cinghiale, cinghiale con appunto a brustolata, patate fritte, tutto leggero. Di sera specialmente? Mi un cuoco, fammi ancora però. Ah sì? Bene. Allora, e poi invece la sera, sono stato alle 7:30 per l'anno inaugurato, alle 5 c'è una mostra al Portello Sile sul rugby. di ieri, di oggi e di domani. Ci sono anche le mie ragazze del rugby che hanno fatto una bella parete del loro gioco, ma è una mostra da vedere, perché dai francobolli e manifesti a tutto tante sulla cose, palla ovale. Tutto sulla palla ovale. Una volta Mussolini ha detto non rugby, non rugby, palla ovale si chiama, tutti parlano in italiano. Ci fermiamo un attimo, sì, che ci ascoltiamo la terza canzone in programma, ed è cantata da Mino Reitano. Era il tempo delle more. Il tempo delle more. Era il tempo delle more e al fiume quasi nuova, com'era nuova la voglia di te, le tue braccia come l'acqua e i grilli intorno a noi, sulle fioriva con me, fiordalisi e papaveri stesi con gli occhi in su, che guardavano il cielo coperto di nubi blu. Quella notte quanti baci, quella notte quante stelle, ma poche verità. Era il tempo dell'amore, il mese che ti amai, le campane senza papaveri stesi con gli occhi in su, che guardavano il cielo coperto di nubi blu. Quella notte quanti baci, quella notte quante stelle, ma poche verità. Era il ed eccoci di nuovo in studio. E se non ricordo male, c'è stato anche oggi, mi pare, o ieri, oggi, qualcosa, un incontro sulla tradizione, sempre l'incontro del Cason, sbaglio? Stamattina la tradizione del 21 anni che la pastoria del Borgo Furo festeggia il Cason, la Canizzano, vicino all'aeroporto. Splendido gruppo folcloristico. Fa una messa, dopo gli fa la maiata di quante si parla, se trova fuori, proprio è un rustico, una bella giornata. Cason che abbia attinenza con quello di Caorlotto? No, perché no, loro hanno fatto lì un Cason. Ah. Abusivo, chiamiamolo così, di Copaglia, roba di Capannone, diciamo, hanno dove hanno tutta la sede, okay. Ed è simpaticissimo. Gianni ricorda sempre il Papa Davide, che era un fortissimo, vengono altri a farlo giù, profilato. Ma se di più di 200 persone, se però, no, un gruppo, una bella, cioè, bel tutte gruppo, le macchine di qua non si passavano, ma brave veramente, sì, sì. devo dare molto in gamba. E poi mi sembra di capire che ci siano parecchi giovani, stanno dando praticamente quel ricambio generazionale che non riesce in tante altre situazioni, e questa è la bravura di questi gruppi, esatto. Come la Pastoria e come il gruppo folcloristico Trevisano, che hanno portato anche le famiglie, questo è veramente e le famiglie questa, hanno portato gli amici e stanno rispondendo alla grande. Io ho una fisarmonicista che è venuto a San Liberale, cioè è giovane, è allievo di Smiazzetto, si chiama Francesco ed è bravissimo, e lui ha detto: se posso vengo sempre volentieri. E questa è una cosa ora che mi allarga il cuore. Questo fa giustizia, sì, di quello che si dice, che i giovani non vogliono essere coinvolti o cose. Se trovano delle cose valide, sane, eccetera, si lasciano coinvolgere. Comunque Smiazzetto ha coinvolto tanti giovani, grande maestro Angelo sì, una persona straordinaria, bravi, anche veramente bravi, sì. Proprio cioè, suonano lì a Sorretti insegnano Fisorchestra, io se posso vado a ascoltarla quando fanno qualcosa sì, fanno in marzo mi sono dimenticata, ma anche in luglio per esempio che la fanno qui al Comunale, e poi anche a San Lazzaro qualche volta fanno. Mi piace tantissimo, proprio provo delle grosse emozioni. Bene, quella è... e questo ragazzino ha suonato da solo è venuto là con la sua fisarmonica e ha suonato. Dopo la Muscovita che piace cantare, farà cantare, adesso può trovare finalmente quello che l'accompagnamento perché sempre occorre sempre un accompagnamento, certo, insomma, sì, sempre. Anche perché la donna ha bisogno di un uomo, sì, ma anche noi uomini abbiamo bisogno di più donne. Allora. E chi è questa Muscovita? Muscovita vende vino in pescheria. La moglie di Muscolis all'inglese. Che ho conosciuto un personaggio straordinario. Mi piaceva tantissimo. So che andavamo a bere il caffè durante l'intervallo. Muscolis era un personaggio straordinario. Sì, molto giovane anche poi, fra l'altro. Esattamente, ma era di uno spirito eccezionale. Adesso chi c'è il figlio? Mi ha dato un panico qua sorpresa. E se ti davo come calma. Ma adesso chi è il figlio che fa? Due figli. Sì, e lei la mattina dà una mano, insomma, a Gazza Lirica, che piace cantare. Un personaggio altrettanto straordinario, devo dire. Io sono andata un mese fa, tanto che non andavo più. Che domanda, un moscato rosa. Ah, un moscato rosa. Che è un vino che invece è più colorato, più sembra scuro, ma se nel boccato in bocca lo dolcetto e poi secco in gola. Però a me mi piace bere, perché se beve allora bastarda, se può bere. Sono Muscoli, è ancora ancora la vecchia tradizione, insomma, lo staria ancora, forse una delle poche, pur con i suoi ammodernamenti, ma è ancora osteria, lo spirito dello staria una volta, Treviso da una volta, insomma, che ci sono tutti questi baretti. Ma sono asettici, hanno poco. Se è colpa dell'Ulse, dopo un giorno faremo un grande convegno. No, fa le osterie nostre, i ristoranti, io fa anatrofi, sai di mediche, ospeai, sai mortuori, perché tutto acciaio. La vetrinetta, il tavolo, la maglia del legno, che dà calore. E esiste solo qua nel Veneto. Perché neanche a Parigi, perché Parigi chiude 99 locali, sono sottoterra, per esempio, ma mi sono informato a Bruxelles, non c'è un regolamento UE che proibisse il legno. È proprio l'autonoma iniziativa nel Veneto. Chissà perché. È una malintesa probabilmente. Va in Toscana, va in Umbria, e questi locali bei, tranquilli, perché sono l'identità, no? Praticamente, la pulizia deve essere l'igiene assoluta, certo, assoluta. Nel modo più assoluto. Ma che l'acciaio è freddo, però il modo come si raggiunge, sì, esattamente. Ecco, allora abbiamo parlato, adesso che in seguito che altre feste ci sono? C'è festa, a metà mese c'è la mamma, festa della mamma, mamma Gigin Gigion, Gigin Gigion, c'è sempre la mamma, bello. È sempre la mamma. Sì. Dove la fate voi? La faremo con tutte le nipotine, la faremo forse festa a casa di famiglia. Sì, festa di famiglia, sì. Perché... Sì. Quindi non cedete, figlia, esatto. No, ho una figlia e poi la compagna di mio figlio, mamma, e mamme, ora mi dico una mamma anche a me, ma non mia è morta, insomma, mia moglie, insomma. Sì, da mamma. Non cedete mamma, quindi al nuovo, i nuovi arrivati, le nuove tendenze, diciamo, come posso dire, commerciali e cose di questo tipo? No, ecco, la festa di mamma non deve essere una cosa commerciale, deve essere un sentimento... che è anche a Matano, che è ispirato da noi altri stessi, che nasce verso il rispetto della mamma, che è più che la festa del papà, che non ha niente a che vedere con il commercio, con queste cose qua, insomma. L'hanno vituperato. Beh, la festa del papà è poco sentita, appunto, un po' una voi moianca, ma la festa della mamma La mamma è sempre la mamma. Sì, sì, la mamma è sempre la mamma, dico sempre. Sì. Difatti c'è una canzone che canta Toto Cutugno. E ogni volta che le mamme, mi pare sentito. Le mamme. Ogni volta che l'ascolto mi commuovo, chissà perché. Beh, certo che hanno. Sono parole, come dire, significative. Il punto è questo: quando si parla di queste cose, quando si dicono cose profonde e significative, la gente risponde. In realtà siamo, come dire, si cerca di distoglierci, cioè il sistema praticamente cerca di distogliere e farsi proprio. Esattamente, cerca di incoconar, come si faceva con Hocke una volta, per dire un termine. Giustificare il loro modo di intendere la società, che è di vendere esclusivamente questo, il dio del denaro, questo è il punto. Se permettete, prima di ascoltare l'altra canzone, volevo così leggere una poesia che ha scritto il poeta Emilio Gallina. Grande Emilio, sì, che salutiamo. Proprio, lo dicevo anche a lui, è una poesia molto particolare, secondo me, ed è intitolata Concerto per oboe e rondine. Sì? Cosa diceva? Ostrega, ha detto, beh, concerto, che è una poesia di oboe e rondine. Cioè, è bellissima. Sì. E cuoreo andare di notte, lento, solenne, l'adagio di Albinoni danza sullo smeraldo del prato e lo scorrere quieto del Sile. Avvolge in un manto di note rapite presenze in ascolto. Sul sommo del Salece si accende improvviso un gioioso garrire. Una piccola rondine unisce il suo canto al flautato strumento. Oboe e rondine. Imprevisto duetto per momenti di alta emozione. Intenso l'applauso finale e nel cielo, in frullo d'ali, il garrulo saluto della pennuta solista. Perfetto, immaginifico. Brava, bellissima. è molto particolare. Diciamo Albinoni a Treviso, che non avevo mai visto venire a mare, perché però Albinoni l'anonimo veneziano che andai monati conoscevo. Sì, che Gallina è sempre tenero. Veramente un'idea molto particolare. Sì. Va bene. Le dirò una cosa allora a proposito. All'osteria di Cararesi adesso, non so fino a quando, in altri 15-20 giorni, che c'è una mostra di poesie che sta in grandie, tipo 70-100, un poster, una cosa del genere, di questo artista per strada Gigi Miracol, che con i poeti che ho fatto dire una poesia anche io, è da Fregona, io perciò è un dialetto tutti in dialetto sono le poesie. E se disegnate da Beppe Mora e da Michele grande. Cavaliere, che sarà una ventina di poesie su dei pareti, e che ne porterò magari anche il libro che porterò delle cose, perché è un sentimento rustico ma profondo, ma presente. Certo che è un dialetto tagliante. È un dialetto duretto, sì, ma per esempio il DH ma loro parlano così un po' sinistra piave, eccetera. Bene, allora ci fermiamo un attimo per una canzone. Perfetto. E ci ascoltiamo Julio Iglesias. Julio Iglesias, ben volentieri. In una bella canzone. Dove sarai? Per un uomo che si ama si fa tutto, si va fino in capo al mondo. E malgrado la distanza fa scordare anche il bene più profondo. So per certo che verresti fino a qui col primo aereo. Se sapessi che in silenzio io ti amo ogni giorno un po' di più. Dove sarai? Dove sarai? Dove sarai? Se di notte dopo luna ancora svegli cerchi un'altra sigaretta e leggendo un libro giallo la tua notte resta ferma e non ha fretta. Quasi fossi pilotata verso me da un sesto senso. E sapessi che in silenzio io ti amo ogni giorno un po' di più. Dove sarai? Dove sarai? Dove sarai? Se poi quando fai l'amore con un altro fai così tanto per farlo, solo il corpo è per lui e nella mente io sottile come un tarlo. Dopo tanto e tanto tempo è come se mi amassi ancora. E sapessi che in silenzio io ti amo ogni giorno un po' di più. Dove sarai? Dove sarai? Dove sarai? Dove sarai? E andiamo con l'ultima tranche delle memorie, anzi delle memorie dei del prossimo delle sono memorie. No, no, esatto, sono vita vissuta, giustamente. Come passa perché ho coniugato tempo? Tradizione con futuro, futuro e il prossimo ma, futuro, cioè i prossimi giorni, ma, quello ma che il futuro dirà. È il nostro momento, il futuro. Esattamente. Quello all'altro lo leggiamo. Assolutamente, il nostro lo viviamo. Lo viviamo e dobbiamo scriverlo ancora. Esattamente. Perché devo dire che il 25 aprile ha compiuto gli anni Tony Ping, sia attore, robe, altre cose, tutto Bob. Grande sportivo. Sì, canottiere, giocato, mi ha insegnato a giocare a rugby a scuola a Ricati, è stato il mio primo allenatore. Ha compiuto 80 anni e ha fatto una festa al campo della Tarvisium con 200 persone. Mamma mia, che bella festa! Allora Peron, che compie anche gli anni a metà maggio, giusto, il 19, dice anche a me, campi da Tarvisium invece di Tarvisium facciamo campi a Villorba. E mi chiamo 300 persone, oh, per farti questa è una sana questa competizione, c'è troppi e sono reggae tutti adesso non so per cosa certo. Tanto io, ma quando che tu giochi in che anno? In prima formazione con riserve o panchina? Ti ho fatto panchina tutti però, sembrano che hanno giocato rugby forse è un po' di moda sì adesso. Esatto, anche perché io, c'è una definizione che voi sicuramente conoscete: il rugby è uno sport da bestie giocato da gentiluomini, mentre il calcio è uno sport di gentiluomini giocato da bestie. Questo è qualcosa che l'hanno detto sicuramente qualche inglese, qualcuno. Ma io non l'ho mai sentito. Sì, sì, è una, sì, sì, una, è sport da gentiluomini, sì, senz'altro. Il discorso qual è però? Che questo sport, che l'arbitro è assoluto, duce assoluto, nessuno, contesta. Nessuno può contestarlo, e poi non ci sono le recinzioni nel campo, l'allenatore è in tribuna, non è in campo, e che c'è un rispetto, e ci si dà botte anche se una volta molto di più, adesso che già televisione non certo. si può più. Ci si, no, ma se è il terzo tempo? È il terzo tempo, oh. che è meraviglioso, mi sono al quinto ormai il tempo, devo raccontare dopo del terzo tempo. Qui abbiamo i tempi, il tempo a proposito è molto risicato. È molto tiranno. Andiamo con le ultime battute, diciamo così, un altro minutino da condensare lo spirito proprio del rugby. Sì, è bello quello, sì. Però il minutino, devo, ecco, è un raccordo molto vecchio che sempre bello. Era Coete. Cioè, sì. L'Ascension, no, ti dai ah, sì, che è andata una bella festa. Venerdì Santo. A messa, perché era prima in Morosette, dopo fora della messa e otto di sera, le esatto. cose, prime processionette così. Approcci. E noi che avevamo Raccoete, cominciamo già in chiesa. Non per già il Corpus in... Domini però, sì. Mi ricordo con l'Ascension, mi ricordo. Ah. Il venerdì santo sicuramente. Perché anche, la processione sì. c'è anche per il Corpus Domini. Eh sì, la processione e la grande processione. Era, non si poteva suonare naturalmente niente, quindi le Raccoete erano. C'è un giocattolo che c'è questo rumore caratteristico. Era terribile, ma era nostro. Caratteristico. La nostra infanzia o giovinezza. Anni che sono così trascorsi velocemente, ma il fatto che riusciamo a ricordarli, diciamo così, nitidamente vuol dire che sono stati come dire, sono stati utili e sono stati vissuti intensamente. C'è una poesia del Cardarelli molto bella, ma che proprio parla degli anni che gli anni passati, che scorrono molto velocemente e poi vanno giù rovinosamente, cioè proprio vabbè, cioè, non è ancora questo il nostro momento assolutamente, noi abbiamo ancora lunga speriamo esattamente che tu porti fortuna, vero? No, portiamo fortuna sì, nel senso che bisogna vivere sempre appunto intensamente quello che si può vivere bene. Noi la ringraziamo tantissimo è sempre un grande piacere. Chiamami presto. Ben volentieri. Ecco, allora Antonio, allora noi salutiamo e ringraziamo le nostre amiche e i nostri amici, inizio. Soprattutto quelli lontani, naturalmente senza dimenticare quelli vicini, e ringraziamo e diamo appuntamento alla prossima volta. E così con te, con l'architetto e con il nostro caro regista Eddie Daici. Eddie, forte. Diamo a tutti una serena e buona notte. Ciao. Grazie, ciao, arrivederci. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.